4A. Ascolta e rispondi. Luisa pranza? Sì, pranza. Maria resta? Sì, resta. Luca suona? Sì, suona. Ingrid guida? Sì, guida. Maria aspetta Luca? No, non aspetta Luca. Stefano fotografa Luisa? No, non fotografa Luisa. Giorgio usa il computer? No, non usa il computer. Claudio parla molto? No, non parla molto. Studi molto? Sì, studio molto. Mangi molto? Sì, mangio molto. Telefoni spesso? Sì, telefono spesso. Lavori qui? Sì, lavoro qui. Abiti qui? No, non abito qui. Passeggi molto? No, non passeggio molto. Guidi piano? No, non guido piano. Cammini bene? No, non cammino bene.